Mezzogiorno, le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Nuovi arresti per corruzione a Roma, sospetti sulla gara per la ristrutturazione dell'aula del Consiglio Comunale, in manette in cinque. Immigrazione, Maroni torna all'attacco e scrive ai prefetti: fermate le assegnazioni di profughi ai comuni lombardi. Squinzi sul PIL e non escludo un'accelerazione nei prossimi mesi. Sulla Grecia, Atene invia il suo documento ai creditori. A giorni la decisione della Chiesa sulle apparizioni di Medjugorje, ma intanto il Papa ironizza: veggenti con le lettere di Maria che vivono di questo. Rissa in discoteca, una ragazza lievemente ferita, il rapper Fedez denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. I nostri contatti, effettogiorno@radio24.it per scriverci, la nostra pagina sul sito www.radio24.it e durante la diretta il numero di sms, il 349-238-6666. In apertura parliamo dell'inchiesta su Mafia Capitale che si arricchisce di un nuovo capitolo mentre emergono i verbali di Salvatore Buzzi. Sentiamo. A pochi giorni dalla seconda retata di Mafia Capitale, nuovi arresti tornano a scuotere il Campidoglio per una serie di presunti appalti truccati. Sono 6 le ordinanze di custodia cautelare eseguite stamattina dalla Guardia di Finanza. Fra le gare finite nel mirino della Procura c'è anche quella per il restauro dell'aula Giulio Cesare, dove si riunisce il Consiglio Comunale Capitolino. La gara sarebbe stata affidata con trattativa privata a Fabrizio Amore, un imprenditore coinvolto anche in Mafia Capitale. Fra gli arrestati c'è anche un alto dirigente della Sovrintendenza dei Beni Culturali di Roma che lo avrebbe favorito. A Piazzale Clodio intanto stamattina sono iniziati gli interrogatori di garanzia delle 25 persone finite ai domiciliari la scorsa settimana, ma nel frattempo trapelano anche i contenuti degli ultimi interrogatori di Salvatore Buzzi. Il boss delle cooperative romane avrebbe definito una brava persona l'ex NAR Massimo Carminati e avrebbe accennato anche alla vicenda del CARA di Mineo. Se parlo, cade il governo, avrebbe detto Buzzi agli inquirenti parlando del bando di gara per la gestione del centro di accoglienza sul quale ha aperto un'inchiesta la Procura di Catania che ha indagato anche il sottosegretario Castiglione. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E proprio sull'immigrazione rimaniamo a questo punto, posto che torneremo a parlare della vicenda di Mafia Capitale, soprattutto della situazione politica in Campidoglio più avanti, con Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e commissario del partito a Ostia. Ma, come si diceva, torniamo sull'immigrazione perché lo scontro tra le regioni del nord, alcune regioni del nord e il governo resta alto. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Il governatore della Lombardia Maroni rilancia e si rivolge direttamente ai prefetti chiedendo di sospendere le assegnazioni di immigrati nei comuni lombardi. Questo spiega Maroni in attesa che il governo individui soluzioni di accoglienza temporanea più eque, condivise, idonee, che garantiscano condizioni reali di legalità e sicurezza. L'ex ministro dell'Interno ricorda che in Lombardia vive già oltre un quinto degli immigrati regolari presenti in Italia, molti dei quali in cerca di lavoro, ed afferma che è impensabile inviarne altri prima di riequilibrare la distribuzione. E poco fa un tweet di Salvini che si rivolge ai cittadini e dice: chiamate le prefetture, protestate, facciamogli sentire cosa ne pensiamo. Ma intorno a quali numeri si sta parlando, Simone? Guardando le tabelle del Viminale si scopre allora che sono 90.000 gli stranieri attualmente in accoglienza, 77.000 gli adulti, il resto sono minori. Questi gravano in maniera sproporzionata però su alcune regioni, Sicilia in primis rispetto ad altre, da qui l'ultima circolare inviata ai prefetti affinché un numero maggiore di migranti venga inviato alle regioni cosiddette in debito rispetto alla quota prevista. La Lombardia è al 9%, il Veneto al 4%, quando dovrebbero avere quote doppie. Ultimo tema, i cosiddetti incentivi ai comuni che ospitano immigrati. Il vice ministro all'interno, Bubbico, chiarisce che non ci saranno né premi né scambi, ma semplicemente la conferma dell'esenzione dal patto di stabilità delle spese connesse alla pressione migratoria. È tutto, linea allo studio. E grazie a Vincenzo Miglietta. Anche di questo tema, ossia degli incentivi ai comuni, torneremo a parlare più avanti col sottosegretario all'economia Enrico Zanetti per capire che cosa effettivamente si può fare. Fatto sta che le regole attuali sull'immigrazione sono frutto in parte della gestione proprio del presidente lombardo Maroni. È un'emergenza grave che richiede la solidarietà e il concorso di tutte le regioni. Così parlava Roberto Maroni, ministro dell'Interno, solo 4 anni fa. Ora, tolta la giacca da ministro e infilata quella da governatore della Lombardia, minaccia di tagliare i trasferimenti ai comuni che decidono di ospitare i migranti. Ma a meno che non si tratti di casi di omonimia, troviamo spesso Roberto Maroni quando si parla dei migranti negli ultimi 15 anni. Era sempre lui, ad esempio, nel governo Berlusconi come ministro, quando l'Italia firmò nel 2003 il regolamento Dublino II, che già conteneva la contestata norma sui richiedenti asilo e il paese d'arrivo. Non risulta che ai tempi Maroni si oppose. Passano gli anni e diventa ministro dell'Interno. È sua la decisione nel 2009 di respingere 22 libici, somali ed eritrei, a causa della quale ci becchiamo 2 anni dopo una condanna da parte della Corte di Strasburgo, con tanto di risarcimento da pagare. Ed è sempre il 2009 quando Maroni si occupa anche dei Rom, stanziando con il piano Nomadi ben 60 milioni per creare campi Rom in 5 regioni, fra le quali il Lazio. Sindaco di Roma era Alemanno. La gestione andò alle COP di Buzzi. Il resto è nelle carte di Mafia Capitale. Ed è ancora nelle carte di Mafia Capitale quel CARA di Mineo che Maroni contribuisce a creare nel marzo 2011 come ministro dell'Interno. E risale sempre a quei tempi l'invocazione alla solidarietà che abbiamo sentito all'inizio. Era il 30 marzo 2011. Davvero questi atteggiamenti di rifiuto che sorgono ovunque si individui un luogo dove accogliere temporaneamente questi clandestini, ecco, questi atteggiamenti di rifiuto non possano essere giustificati. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle parole del Papa su Medjugorje, il punto con Katia Caramelli. Katia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno agli ascoltatori. Il Papa questa mattina, nella consueta messa a Santa Marta, ha pronunciato delle parole senza fare riferimento direttamente a Medjugorje, ma a molti il riferimento è parso chiaro. Le parole sono queste: ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio e vivono di questo? Questa non è identità cristiana. Queste le parole del Papa di questa mattina, che poi ha ripreso un po' le parole che già aveva detto pochi mesi dopo l'elezione nel 2013, quando intervenendo aveva detto: Maria non è un impiegato che invia messaggi tutti i giorni. Il riferimento a Medjugorje è chiaro perché sono i veggenti di Medjugorje a dare messaggi, diciamo così, quasi quotidianamente della Madonna. I veggenti sono 4 donne e 2 uomini. La prima apparizione l'hanno ricevuta il 24 giugno del 1981 e da allora poi riceverebbero questi messaggi quotidianamente. Il Papa ha creato attesa sul fenomeno Medjugorje perché sabato ha visitato Sarajevo e nel viaggio di ritorno ha ricordato proprio che sarebbe imminente un verdetto della Chiesa su queste apparizioni dopo 4 anni di lavoro di una commissione che aveva voluto il suo predecessore Benedetto XVI e che è presieduta dal Cardinal Ruini. Ruini è stato interpellato ieri, non ha voluto dir molto al riguardo, ha semplicemente detto di aver consegnato al Papa una proposta articolata, dopodiché sarà la Congregazione per la Dottrina della Fede a prendere le decisioni. C'è da dire che certo le parole del Papa di oggi sembrano andare verso una direzione abbastanza chiara, quantomeno il verdetto dovrebbe essere quello di non consta soprannaturalità, cioè non c'è stato modo di verificare la soprannaturalità di quanto avviene a Medjugorje, almeno questa sarebbe l'indicazione. Se non addirittura una bocciatura in toto di un fenomeno che comunque ricordiamo è molto grosso. E infatti è un tema. Io intanto ti ringrazio, Katia, per questo aggiornamento sul quale torneremo più avanti nel corso della trasmissione, perché appunto Medjugorje attira centinaia di migliaia di pellegrini ogni anno. Grazie a Katia Caramelli per questo aggiornamento. Parliamo dell'economia italiana adesso, perché sono arrivate poco fa le parole del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi all'assemblea dell'ANCI, l'Associazione Nazionale dei Calzaturifici Italiani, che dice ci potrebbe essere un'accelerazione del PIL rispetto a quanto previsto. Sentiamo. Non esclude ci possa essere un'accelerazione nei prossimi mesi, grazie anche al contributo di Expo, al prossimo giubileo e agli impegni legati alla candidatura per ospitare possibilmente le Olimpiadi. Però sottolineo due aspetti. Il primo è che ripresa non vuol dire uscita dalla crisi e dalle sue conseguenze, ma è l'inizio della lunga risalita. Così Giorgio Squinzi sull'Italia. Ci spostiamo alla Grecia, che ha presentato ai creditori una nuova proposta di 3 pagine sugli obiettivi di bilancio. Nel documento si tornerebbe a chiedere anche di convertire i bond greci acquistati dalla Banca Centrale Europea con il programma S&P, con scadenze più lunghe da trasferire al Fondo Europeo. Da quel che si apprende in queste ore, le istituzioni stanno valutando con cura e diligenza le nuove proposte greche arrivate questa mattina. Sono parole del portavoce del Presidente della Commissione Europea, Jean-Claude Juncker. Vedremo che cosa ne emergerà nelle prossime ore. Intanto restiamo sull'economia con il piano della banca HSBC per il taglio di 25.000 posti di lavoro. La strada fatta nel 1993 da Hong Kong a Londra potrebbe essere percorsa a ritroso in un futuro non poi così lontano. Un ritorno alle origini per la Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, nata nella ex colonia britannica nel 1865 e oggi uno dei gruppi bancari più grandi al mondo, il primo per capitalizzazione in Europa. Il passo non sarebbe indotto però dall'attaccamento alla storia, quanto dal timore di un regime fiscale instabile. Così lo ha definito l'amministratore delegato della banca, facendo riferimento al referendum con cui la Gran Bretagna si pronuncerà sull'Unione Europea. Ma nei pensieri e nei discorsi di Stuart Gulliver ci sono soprattutto le nuove regole dell'esecutivo per punire i banchieri che si macchiano di condotte illecite. Per il momento è certo che la HSBC procederà al taglio di almeno 25.000 dipendenti su 250.000 complessivi e cederà le attività in Turchia e Brasile. Un piano per riportare il gruppo in utile dopo le sanzioni accumulate negli ultimi anni, che vanno di pari passo con gli scandali in cui la banca è inciampata. Riciclaggio di denaro dei narcos, evasione fiscale, cartello sui cambi assieme ad altri grandi gruppi bancari. Gulliver ha annunciato l'aumento degli investimenti in Asia e in Cina. La regione sarà il centro del commercio mondiale del prossimo decennio, ha detto. La dipartita forse entro la fine dell'anno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ritorniamo alla politica. Abbiamo parlato dello scontro per quanto riguarda l'immigrazione, ma c'è anche uno scontro interno al Partito Democratico, che è tornato a manifestarsi ieri sera nel corso della direzione nella quale però il Presidente del Consiglio e segretario del partito ha aperto alla minoranza su modifiche al DDL scuola. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, proprio così Simone, 15 giorni per discutere della riforma della scuola e per provvedere a modifiche. Matteo Renzi lo promette, la direzione nazionale PD, anche se il Premier sottolinea che la riforma non è un ammortizzatore sociale e che la scuola va riformata per gli studenti e non per gli insegnanti. Questa mattina è in corso una riunione dei senatori PD, poi al via le votazioni degli emendamenti del disegno di legge in Commissione Istruzione di Palazzo Madama. Ma ieri notte dal Premier è arrivato anche un out alla minoranza Dem. Basta diktat, ha detto Matteo Renzi, chi non vota la fiducia non può fare la ramanzina sull'unità. Governiamo in 17 regioni su 20 e non manca di criticare anche Renzi la coalizione sociale di Landini. Sembra una coalizione antisociale destinata alla sconfitta. Ma per la minoranza Dem il Premier si rifiuta di guardare la realtà e la perdita di voti alle regionali. Ci sono campanelli d'allarme, scintille quindi in direzione tra Fassina e Giachetti, in una direzione terminata alle 2 di notte, mentre il neo governatore della Campania Vincenzo De Luca definisce la scelta dell'antimafia infame ed eversiva. Il segretario della FIOM è comunque anche attaccato da quello della CGIL, Susanna Camusso. Landini deve scegliere tra due ruoli che diventano contraddittori, dice Camusso. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questi aggiornamenti. La cronaca ci porta a Cuneo, un uomo sarebbe morto durante un tentativo di furto in casa. Avrebbe sorpreso 2 ladri a rubare al piano terra della sua villetta di Santo Stefano nelle Langhe di Cuneo. Poi tra Patrizio Piatti, orafo in pensione di 65 anni, e i 2 malviventi sarebbe scoppiata una colluttazione. Sono stati esplosi alcuni proiettili e uno ha colpito il padrone di casa alla testa. I ladri, che avrebbero indossato una maschera, sarebbero riusciti a scappare dopo aver legato la moglie dell'imprenditore, presente in casa al momento dell'accaduto stamane intorno alle 7. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo del 118. Sul posto sono intervenuti anche i RIS dei carabinieri, che hanno trovato segni di molti colpi di arma da fuoco, sentiti distintamente dai vicini, come riferito alle forze dell'ordine. Le indagini sono coordinate dalla procura di Asti ed è caccia ai 2 killer composti di blocco in tutta la provincia di Cuneo. Camilla Romana Bruno, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molti altri argomenti di cui parlare subito dopo la viabilità. Avremo innanzitutto il tema di Mafia Capitale, soprattutto di quello che succede all'interno del Campidoglio. Torneremo su Medjugorje e parleremo anche di questa rissa della quale si è reso, sorta di rissa della quale si è reso protagonista il rapper Fedez ieri sera in discoteca, adesso denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Ma prima il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Ancora arresti per corruzione a Roma, sospetti sulla gara per la ristrutturazione dell'aula del Consiglio Comunale. L'immigrazione, Maroni torna all'attacco e scrive ai prefetti: fermate l'assegnazione di profughi ai comuni lombardi. Squinzi sul PIL, non escludo un'accelerazione nei prossimi mesi. A giorni la decisione della Chiesa sulle apparizioni di Medjugorje, ma intanto il Papa ironizza veggenti con lettere di Maria che vivono di questo. Buongiorno al senatore Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e commissario del Partito Democratico a Ostia. Esposito, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Vorrei capire da lei, dal suo osservatorio, Ostia è un altro luogo dove l'infiltrazione della criminalità, e da questi microfoni lo abbiamo raccontato spesso, è stata molto forte. Ostia, essendo, e lo spiego per gli ascoltatori che non sono di Roma, Ostia fa parte del comune di Roma, cioè nonostante sia discretamente distante non è un comune a sé. Dal suo osservatorio come vede la situazione? Se Roma debba essere commissariata, perché continuiamo a vedere notizie di infiltrazioni negli appalti anche a livello di dirigenti, non solo di consiglieri comunali, oppure no? Ma guardi, io intanto, lei faceva accenno a questi nuovi arresti e hanno arrestato l'imprenditore che ha ristrutturato la sala Giulio Cesare dove si svolge il consiglio comunale. Le posso dire, lei ha parlato di appalto. Magari avessero fatto un appalto, in realtà è stato un affidamento diretto, cioè quello che a Roma era la normalità. Sì. A Roma le gare d'appalto pubbliche... Cioè appalto è sempre appalto, ma non era gara, diciamo. Ecco. Non era gara, ha capito, e beh, lei capisce qual è la differenza, perché certo. L'affidamento diretto è un affidamento che individua una persona, un'azienda, un soggetto, e naturalmente con questo meccanismo è molto più probabile che ci siano situazioni di illegalità. Detto questo, quello che sta emergendo, naturalmente, lo dico prima di tutto da cittadino e dirigente del Partito Democratico, mi fa veramente arrabbiare e mi umilia. Credo che purtroppo il fatto che ci siano alcuni esponenti del Partito Democratico non può che rendere questa vicenda ancora più brutta. Naturalmente io non credo che vada sciolto il Consiglio Comunale o che ci sia il rischio di commissariamento. Io non lo vedo, però naturalmente non spetta a me decidere, spetta al prefetto Gabrielli. Però mi permette di dire questo: sì. L'azione della magistratura è non solo benvenuta, ma salutare, però è un'azione repressiva. Ignazio Marino di questa azione repressiva è anche in parte un protagonista, seppur in una parte minima, perché comunque lui da quando è arrivato ha portato molti documenti poco chiari alla Procura della Repubblica. Ma io credo che se l'azione della magistratura repressiva non viene accompagnata tempestivamente da un risanamento profondo anche della macchina amministrativa del Comune di Roma, il commissariamento non è utile, le elezioni non servono a niente, perché se non si bonifica anche la parte amministrativa, cioè quella parte che poi dovrebbe dare attuazione alle scelte della politica, che evidentemente non ci sono state, perché altrimenti si sarebbero fatte le gare. Qua c'è un tema, però capisce Esposito che qua c'è un tema, cioè se l'inquinamento arriva nella parte amministrativa e non tutto questo inquinamento è identificabile e i dipendenti comunali infedeli, per così dire, è difficile licenziarli ed è difficile per un amministratore capire... A volte impossibile. Esatto, è difficile per un amministratore capire chi si trova intorno, cioè se è una persona affidabile oppure no. Come guardi, ci si muove? Forse il commissario a questo punto, mi scusi, forse il commissario a questo punto è veramente la scelta giusta o no? Guardi, non credo, onestamente non credo, perché guardi, il commissario mediamente nelle amministrazioni fa una ordinaria amministrazione, cioè non si occupa della straordinarietà. Vuole che le dica con grande serenità qual è lo strumento per cominciare a togliere un po' di, mi permette di chiamarla polvere, senza voler ridurre la portata delle situazioni di cui stiamo parlando, fare la rotazione dei dirigenti. E la rotazione dei dirigenti non la fa il commissario, la sta facendo Ignazio Marino. È chiaro? Cioè noi dobbiamo, e io lo dico, ci tengo a dirlo, perché questa cosa, ah, non volete andare al voto perché il PD ha paura di perdere, guardi, noi può anche darsi che la nostra azione non verrà riconosciuta dagli elettori, chi lo sa. Non è questo il punto. Il punto è che se noi la capitale d'Italia non solo non viene bonificata dal punto di vista della politica, quindi i partiti devono, a cominciare dal Partito Democratico, devono cominciare a fare un'analisi seria sul fatto che evidentemente ci sono dei limiti nella scelta della classe dirigente, perché se poi ti trovi di fronte a persone che parlano di mungere la mucca, lei capisce che no? Partecipano a con questo principio perché, che abbiamo sbagliato. Mi scusi, quello che dico Esposito, quello che dico è che tra le persone arrestate, per carità con tutto il garantismo, però insomma, ci sono una serie di intercettazioni che ci fanno sorgere forti sospetti, tra le persone arrestate ci sono esponenti di rilievo in Campidoglio e non solo del vostro partito e che sostengono la maggioranza di Ignazio Marino. Guardi, intanto questi esponenti arrestati sono stati immediatamente sostituiti. Io credo che dobbiamo andare un pochino oltre, non perché sono un garantista e non sono per i processi di piazza. Però guardi, io credo che la magistratura ha un compito e naturalmente i processi si svolgeranno, ci sono tre gradi di giudizio. Però un politico deve avere una sensibilità etica superiore. Io l'ho detto, non voglio dare consigli a nessuno perché poi sembra sempre che uno voglia fare il primo della classe, ma le garantisco che se io mi trovassi nelle condizioni di essere anche non indagato ma inserito in intercettazioni come quelle che ho letto per esempio questa mattina, io anche per potermi difendere meglio, va bene, mi difenderei e poi una volta che avrò fatto valere le mie ragioni tornerò all'attività politica. Vede, questo elemento è un elemento che va al di là del garantismo, è un problema di etica personale. Io non sono, anche se sono convinto di essere innocente, e i cittadini oggi hanno una sensibilità, giustamente, che per cui chiedono alla politica di essere giustamente ipertrasparente. E se c'è un dubbio, è bene toglierlo. E guardi, le posso dire una cosa che le potrà apparire da vecchio partitista. E c'è anche un po' di dovrebbe esserci anche un po' di gratitudine per l'associazione che ti ha messo nelle condizioni di svolgere un ruolo di privilegio, no? E in un momento in cui questa è la situazione, il riconoscimento di riconoscere questa gratitudine vuol dire anche farsi da parte eventualmente. Allora, e guardi, questo è il punto. Io credo che su Roma, mi permetta di dirla, poi concludo, col presidente Orfini, noi questo lavoro l'abbiamo cominciato, mi permetta di rivendicare che io da commissario di Ostia ho dimissionato il presidente del decimo municipio e non l'ho fatto aspettando la magistratura, che ha poi fatto la sua attività e il presidente del decimo municipio è tra quelli arrestati la scorsa settimana. Ecco, la politica deve arrivare prima, non perché è in competizione con la magistratura, sia chiaro, ma per aiutare l'azione della magistratura, perché se la politica svolge la sua funzione, le mele marce le trova prima della magistratura. La ringrazio, grazie a Stefano Esposito, senatore del Partito Democratico e commissario del partito a Ostia. Abbiamo sentito lui, come sapete, lo dico agli ascoltatori, abbiamo sentito nelle scorse settimane anche il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Campidoglio e abbiamo sentito anche Alfio Marchini, quindi come avete sentito su questo tema stiamo sentendo tutte le parti politiche. Poi domani dovrebbe arrivare il documento con il quale si ragiona un po' sulla condizione delle infiltrazioni all'interno del Campidoglio, il documento di Gabrielli, del prefetto. Saverio Gaeta, vaticanista, esperto di Medjugorje, buongiorno, e giornalista, e quindi ci diamo del tu. Saverio, buongiorno, buongiorno e benvenuto. Abbiamo le parole del Papa di oggi che sembrano confermare in parte quello che già aveva fatto intuire su Medjugorje. Dice il Papa oggi: ma dove sono i veggenti che ci dicono oggi la lettera che la Madonna manderà alle 4 del pomeriggio? E vivono di questo, questa non è identità cristiana. Insomma, ci fa intuire il Papa che il Vaticano non ha intenzione di riconoscere Medjugorje come, la faccio semplice per gli ascoltatori, come soprannaturale. Vorrei sapere cosa ne pensi. Dunque, credo che sia un po' eccessivo giungere a questa conclusione in base a queste parole del Papa, non peraltro perché sono parole che aveva già detto nel novembre 2013, sostanzialmente identiche, e anche perché probabilmente nell'arco di un mesetto la riunione della Congregazione per la Dottrina della Fede dovrebbe portare al Papa delle soluzioni molto più precise rispetto al passato sulla questione Medjugorje. La mia impressione è che il Papa, quando parla di queste cose, parla un po' più in generale, perché oggi noi parliamo di Medjugorje perché è l'apparizione presunta, ovviamente, più famosa al mondo, sì, poiché ci vanno milioni di persone ed è ancora in corso. Perdonami Saverio, però il punto è proprio questo, no? I sei veggenti sostengono che la Madonna parla con loro regolarmente. Se il Papa fa riferimento ad un evento che avviene costantemente, quindi non ad un'apparizione singola, mi sembra evidente che parli di Medjugorje, no? E invece no, perché quando si parla di un'apparizione dove alle 4 del pomeriggio la Madonna manda un messaggio, non si parla di Medjugorje, perché Medjugorje ha un messaggio una volta al mese e tutti gli altri giorni in cui ella appare a questi presunti veggenti non fa altro che pregare con loro, quindi non porta né un messaggio né altro, ma fa quella che è l'azione che qualunque cristiano fa normalmente ogni giorno per implorare poi da Dio che avvenga la pace, la conversione e tutto il resto. Allora, in questo ovviamente si può tranquillamente disquisire, avere ognuno le proprie opinioni, e soltanto però per essere precisi anche nei confronti degli ascoltatori, non sempre tutti sanno che appunto Medjugorje ha tre veggenti di quei sei famosi iniziali che hanno ogni giorno un'apparizione, ma che è un'apparizione legata soltanto alla preghiera. I messaggi di Medjugorje in tutti questi 35 anni sostanzialmente sono circa 500, quindi immagina un po' se 500 messaggi ci sono stati anche in tantissime altre apparizioni. Questo non vuol dire che su Medjugorje possa esserci anche un giudizio non positivo, perché questo lo stabilirà la Congregazione per la Dottrina della Fede e il Papa poi prenderà la sua decisione finale. Quello, sì, che però in questo momento conta è capire quanto Medjugorje possa essere anche dal punto di vista pastorale utile a tutti quei fedeli che ci vanno, che li riscoprono per i motivi più vari una vita di fede più intensa. Quindi comprendere se Medjugorje, sì, effettivamente ha una ragione di veridicità o meno, e questa è la prima cosa, e sì, la Chiesa dovrà appurare questo, sì, oppure potrà dire, come hanno detto nel 91 i vescovi, non siamo in grado di confermare questa veridicità o di smentirla, sì, totalmente, ma soprattutto io credo che anche le parole del Papa sono vere in quest'altra chiave, cioè non di smentire o di bocciare, sì, per dirla in termini giornalistici, un'apparizione specifica, ma di chiedere a tutti i cattolici, chiunque di noi che in qualche modo crede alla presenza della Madonna sulla, sì, terra anche in questo periodo, viva queste esperienze non come l'unicum, l'assoluto, ma come qualcosa che invece deve aiutare a arrivare a Gesù Cristo. Ti ringrazio, devo chiudere veramente, Saverio. Grazie a Saverio Gaeta, che è vaticanista, esperto di Medjugorje e autore dell'ultima profezia, La vera storia di Medjugorje. Grazie Saverio, noi ci fermiamo, c'è la borsa, poi ci ritroviamo subito dopo per parlare col sottosegretario all'economia Enrico Zanetti di questo tema, ossia della possibilità di sgravare di qualche vincolo di bilancio i comuni che decidono di accogliere più immigrati. È possibile? Non è possibile? È un'opzione valida? Ne parliamo tra poco. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Nuovi arresti per corruzione a Roma, sospetti sulla gara per la ristrutturazione dell'aula del Consiglio Comunale. Immigrazione, Maroni scrive ai prefetti, fermate le assegnazioni di profughi ai comuni lombardi. Squinzi sul PIL, non escludo un'accelerazione nei prossimi mesi. Rissa in discoteca, una ragazza lievemente ferita, il rapper Fedez denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale. Ne parliamo tra poco, intanto la borsa. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Come si diceva in apertura, si sta ipotizzando in queste ore che si allenti il patto di stabilità per i comuni che vogliano o diano la disponibilità ad accogliere più migranti di quanto previsto. Ne vogliamo parlare col sottosegretario all'economia Enrico Zanetti, che è in linea con noi. Buongiorno innanzitutto. Buongiorno e grazie per l'invito. Quanto è praticabile quest'ipotesi e ci state davvero lavorando? Ma l'ipotesi credo che in linea teorica sia praticabile, per ora è stata lanciata semplicemente come idea, peraltro in risposta ad atteggiamenti vergognosi di chi addirittura minaccia tagli viceversa di trasferimenti regionali ai comuni che scelgono di accogliere i migranti. Detto questo, non mi sembra però un'ipotesi particolarmente coerente. Se c'è la possibilità di dare dei maggiori spazi di agibilità finanziaria ai comuni rispetto al patto di stabilità, il criterio deve essere quello di premiare i comuni virtuosi, punto e stop. Altrimenti si arriva all'assurdo che diamo spazio finanziario ai comuni che hanno soldi in cassa che altrimenti non possono spendere, se li spendono per i migranti, mentre magari non glielo lasciamo fare se vogliono, che ne so, potenziare la rete degli asili nido. Insomma, mi pare che sulla questione immigrazione stiamo un po' tutti difettando in lucidità in questa fase elettorale. Che cosa si potrebbe fare in alternativa, secondo lei, nel caso appunto alcuni comuni diano una maggiore disponibilità? Perché, insomma, per certi versi ci sembra di capire che questa ipotesi viaggia su una linea che è simile a quella delle grandi opere, no? Si immaginano delle compensazioni per i comuni che appunto decidono di gestire questa questione. Credo che si debba semplicemente dare una contribuzione che attinge naturalmente alle risorse che sono a disposizione per fronteggiare la questione immigrazione. È ovvio che chi accoglie di più avrà più supporto da quel punto di vista, ma il patto di stabilità, ribadisco, è qualcosa che non ha nulla a che vedere e che dal mio punto di vista deve essere utilizzato per premiare appunto chi ha bilanci virtuosi, chi ha soldi che può spendere, che il patto non li lascia a spenderli, ma a quel punto deve poterli spendere come meglio ritiene, o quantomeno dando pari importanza a un fatto significativo come questo dell'accoglienza, ma altrettanti fatti significativi che riguardano i servizi dati ai cittadini, altrimenti cadiamo veramente nell'eccesso opposto rispetto alle vergognose dichiarazioni di alcuni governatori regionali. Un po' di equilibrio serve. Senta una cosa, da un punto di vista puramente tecnico, e non glielo chiedo come segretario di scelta civica, insomma, o come esponente del governo, ma da un punto di vista puramente tecnico, la provocazione, chiamiamola così, lanciata dal presidente della Lombardia Maroni di tagliare i fondi regionali ai comuni lombardi che accolgono i migranti, è praticabile oppure no? Guardi, da quello che a me risulta non mi sembra praticabile, quantomeno non in via diretta. Se poi la si costruisce facendo in modo che il risultato sia questo, facendo leva su altri parametri fatti apposta per penalizzare i comuni che accolgono i migranti, probabilmente le soluzioni possono essere trovate. Però al di là qui dell'aspetto tecnico, io credo che vada rimarcato proprio un aspetto politico vergognoso, soprattutto la figura, devo dire, del governatore Maroni, che nel 2011 alla Camera da ministro fece un discorso molto chiaro in cui invitava tutte le regioni alla solidarietà sulla base di un criterio logico, qual è il criterio anche della popolazione. Ritrovare la stessa persona a distanza di 4 anni che lancia una proposta del genere credo che dia veramente l'idea dell'imbarbarimento a cui è arrivato il dibattito politico in Italia. Grazie ad Enrico Zanetti, sottosegretario all'economia. Buona giornata. A voi. E dunque noi cambiamo argomento prima di andare a chiudere un altro paio di storie. La vicenda di Francesco Becchetti, l'uomo che nel 2013 ha fondato a Tirana Agon Channel, la TV italiana delocalizzata in Albania e in onda sul canale 33 del digitale terrestre. L'imprenditore adesso è ricercato dalle autorità albanesi per riciclaggio di denaro e falsa documentazione per attività legate al business dell'energia. Secondo gli inquirenti sarebbe stato messo in uno schema di riciclaggio e 5 milioni di euro di evasione fiscale. I suoi conti sono stati sequestrati, Agon Channel potrebbe chiudere. Tra i volti noti che avevano creduto al sogno della TV delocalizzata e libera, Antonio Caprarica, che aveva lasciato l'incarico di direttore news dopo soli 15 giorni per le strutture inadeguate della redazione albanese. Sentiamo Caprarica intervistato da Camilla Romana Bruno. La delocalizzazione è certo che ci abbiamo creduto, perché naturalmente i costi generali di gestione, i costi del lavoro, i costi delle apparecchiature, tutto in Albania è molto più basso e quindi questo consente l'avvio di un'impresa televisiva che altrimenti in Italia sappiamo tutti è pressoché impossibile. Quindi abbiamo creduto a questo progetto e abbiamo creduto alla possibilità che utilizzando dei volti noti, amati dagli spettatori, questa televisione potesse decollare verso un obiettivo realistico, perché l'obiettivo che ci è stato posto era quello dell'1% di share. Ma io non avrei preso nemmeno un caffè con questo signore se queste accuse fossero arrivate prima o se avessimo mai sospettato una roba di questo tipo. Siamo alla vicenda di Fedez, una sorta di rissa ieri in discoteca con qualche problema con i poliziotti. 4 giorni di galera, risse ogni sabato sera, i soliti racconti finti tratti da una storia vera. Fedez, il giovane rapper del momento, ha vissuto una nottata degna dei suoi testi, culminata con una denuncia a suo carico per oltraggio a pubblico ufficiale. Stando a quanto ricostruito, l'artista si trovava al Giascavalli, discoteca milanese, quando intorno alle 4:30 è stato avvicinato da fans, forse un po' invadenti, in cerca di selfie e autografi. Ne è nata una sorta di rissa, durante la quale Fedez avrebbe lanciato una bottiglia contro una lastra di vetro. Un frammento ha ferito leggermente alla testa una ragazza che ha dovuto ricorrere a cure ospedaliere. A quel punto Fedez avrebbe chiamato la polizia, poi avrebbe tentato invano di lasciare il locale, trattenuto dai buttafuori. Nervosissimo per il trattamento, si sarebbe allora scagliato contro gli agenti intervenuti. Siete delle merde, fate un lavoro di merda, avrebbe detto. La polizia mi ha detto che sono stato di fermo. Oh, guarda che non sono un drogato, sono un ragazzo moderno. Il rapper avrebbe accusato la polizia di non fare bene il proprio lavoro, annunciando che avrebbe sporto querela, cosa che ha fatto poco dopo. A suo dire, gli agenti avrebbero operato un abuso di potere, evitando di farsi identificare e non identificando a loro volta i buttafuori che gli avevano impedito di lasciare subito la discoteca. Da segnalare che le parole attribuite a Fedez alla ricostruzione dei fatti sono state seccamente smentiti dal legale del rapper. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Traffico.